Metti in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. Le voci in scena di oggi sono due. Uno è laureato in lettere e filosofia con uno studio di regia sul teatro di Pirandello e ad honorem in farmacia. È da sempre diviso tra l'amore per il palcoscenico e la curiosità scientifica. Regista, autore, attore di teatro, radio, cinema e televisione, docente, saggista e giornalista, è volto popolare della RAI dal 1973. L'altro è autore e conduttore radiofonico. È un cult per ogni appassionato d'opera con il suo programma La Barcaccia dall'ottobre del 1988. Per la prima volta insieme in un incontro radiofonico in campo neutro qui a Radio 24. Il 25 settembre firmeranno regia e conduzione del Gala Lirico all'Arena di Verona con José Cura, Maria Guleghina e Carlo Guelfi diretti da Massimo Zanetti. Le voci in scena di oggi sono Michele Mirabella ed Enrico Stinchelli. L'idea è quella di fare un gala operistico, però fuori dalle consuetudini del gala operistico, perché io personalmente mi piacerebbe sapere anche il parere di Michele a proposito di questo. Trovo i gala operistici come una delle cose più mortifere proprio in assoluto che nella mia attività di appassionato d'opera prima di tutto e poi di addetto ai lavori ho dovuto seguire. Il gala operistico è di solito una passerella di arie con i cantanti statue di sale davanti a un'orchestra schierata sul palco, magari qualche brutta luce buia e davanti a un pubblico che vede come una catena di montaggio di arie sconclusionate non legate tra loro. Cerchiamo di fare esattamente l'opposto. Quest'idea cerimoniale e cerimoniosa della esecuzione compunta, come un compito in classe, come un'interrogazione, come un esame, come una lettura notarile, in realtà non aiuta davvero il fascino, a far crescere il fascino, lo charme dell'opera lirica, che invece è uno spettacolo totale e completo. Il pubblico dell'arena è tra i tutti il migliore e il più grande e anche il peggiore, il più difficile voglio dire, non il peggiore, perché è eterogeneo e non attiene alla filosofia dell'abbonamento. È lì per passare una serata di emozioni, cercheremo di dargliele. Ecco Stinchelli, appunto, questa era una delle mie curiosità, un pubblico vasto e un pubblico estremamente stratificato, perché c'è il vero appassionato, chi ne capisce, chi ha studiato, chi insomma ha delle alte aspettative e anche chi si deve avvicinare all'opera per la prima volta. Sì, infatti questo è la grande sfida, è la grande difficoltà, ma bisogna rivolgersi innanzitutto al pubblico che si avvicina per la prima volta, perché noi includo ovviamente Michele, perché conosco la sua passione operistica profonda, la sua passione e cultura operistica, perché la passione non basta, poi bisogna studiare, noi che siamo immersi in questo liquido amniotico proprio e siamo imbevuti di musica, di vociomania, direi di melomania allo stato proprio viscerale, e siamo dei malati, irrimediabilmente malati e destinati a non guarire mai, ma chi si avvicina per la prima volta rischia all'inizio di rimanere atterrito dall'opera lirica, cosa che spesso accade quando per esempio i frequentatori frequentatori di teatro che capitano in serate sbagliate o perché l'esecuzione non è all'altezza, ma peggio ancora quando ci sono degli allestimenti orrendi, e su questo si potrebbe aprire un dibattito che dura ore e ore e ore, ma quelle cose allontanano, e allora è difficile rompere il primo diaframma con l'opera, però una volta che sei entrato dentro, poi la ami per sempre. Mi piace il titolo, l'opera è la grande bellezza, perché la grande bellezza è un film di successo che però ha parlato delle bellezze e delle miserie di questo paese, invece qui è bellezza pura. Ma sì, lì il titolo è, diciamo che è paradossale, il titolo del film è evidentemente in controsenso. Noi invece, io credo che insomma, possiamo affermare che l'opera lirica sia davvero la grande bellezza. Si parla l'italiano nel mondo grazie all'opera, se no è inutile, non c'è dubbio. Inutile. Cioè, ancora tu vai in paesi incredibili, veramente dove la cultura italiana si riduce appunto agli spaghetti, alla moda, per carità, alle nostre bellezze naturali, ma soprattutto si parla l'italiano attraverso i libretti d'opera, che poi è la grande cultura italiana soprattutto dell'Ottocento, dove l'unica forma poi letteraria conclamata è quella dei libretti d'opera, in fondo, se escludiamo da Leopardi in giù, ecco, perché poi abbiamo avuto un buco da quel punto di vista, riempito proprio da quelle frasi epiche, come non so, di quella pira, l'orrendo fuoco, appunto, sento l'orma dei passi spietati del ballo in maschera, o altre cose che sono entrate addirittura nel gergo. Quindi l'opera in italiano, quello, se ci tranquillamente nel mondo è grazie all'opera, altrimenti si fanno quattro risate. Perché dobbiamo dirlo, tra Goldoni e Pirandello c'è solo l'opera lirica di valore internazionale indiscusso, e se noi possiamo dire ogni tanto che i calici sono lieti o che le lacrime sono furtive, lo dobbiamo ai tanto biasimati a torto librettisti d'opera, tra i quali si annidavano nomi eccellenti come Boito, giusto per dirne uno, Ed è tutto per questo Voci in Scena oggi con Michele Mirabella ed Enrico Stinchelli. L'appuntamento è per lunedì alla stessa ora.